Storie italiane. L'amato usignolo. Questa storia è di un tempo in cui la Cina era governata dai re. Uno di questi re aveva un bellissimo palazzo e la parte più bella del palazzo era il rigoglioso giardino che aveva fiori di ogni tipo. Alcuni di questi fiori si potevano trovare solo in questo giardino e in nessun'altra parte del mondo. Il giardiniere metteva delle minuscole campanelline su di essi. Il giardino era così grande che se guardavi fino in fondo, vedevi che portava alla foresta. Un fiume scorreva in quella foresta e vicino al fiume c'era un albero che ospitava un usignolo. L'usignolo cantava così dolcemente che chiunque ascoltava le sue canzoni rimaneva ipnotizzato. Questo regno era così famoso che persone di terre lontane venivano a visitarlo. Scrittori avevano scritto libri sul regno e in ogni libro si parlava principalmente dell'usignolo e delle sue canzoni. Un giorno il re in persona lesse uno di questi libri. Quando lesse dell'usignolo si perse nei suoi pensieri. Quale uccello del nostro regno è questo? Non ne ho mai sentito parlare. Chiamò il suo primo ministro. Ministro, che cos'è questa cosa di cui ho letto? C'è un uccello chiamato usignolo nel nostro regno che canta così dolcemente da essere considerato la più bella creatura del nostro intero regno? Com'è possibile che non ne abbiamo mai sentito parlare? Altezza, non ho mai sentito parlare di un uccello del genere. Vai, trovalo e chiedigli di cantare per me a corte questa sera. Come dite voi, Altezza? Il primo ministro si affrettò non appena udì l'ordine del re. Sopra e sotto, a destra e a manca, chiese a tutti quelli che incontrava nel palazzo. Ma nessuno aveva mai sentito parlare dell'usignolo. Andò ancora dal re. Altezza, è del tutto possibile che l'uccello sia solo frutto dell'immaginazione degli scrittori e che in realtà non esista affatto un uccello del genere? No, il re del Giappone mi ha mandato questo libro. Niente di ciò che dice il libro può essere una bugia. Voglio sentire l'usignolo cantare. Portalo davanti a me stasera, altrimenti l'intero regno dovrà subire una punizione. Il primo ministro non ebbe altra scelta. Continuò a chiedere a tutti quelli che incontrava dell'uccello. Alla fine incontrò una bambina. Usignolo? Sì, l'ho vista. L'ho anche sentita cantare. Vive vicino al fiume? Ascolta, se mi porti dall'usignolo ti darò una ricompensa. Il ministro si recò con la bambina verso la foresta e mandò un messaggio al re dicendo che l'uccello era stato trovato. Insieme raggiunsero la parte della foresta dove abitualmente cantava l'usignolo. L'usignolo iniziò la sua canzone. La bambina disse: «Vedi, guarda qui, questo è l'uccello di cui ti ho parlato!» Il ministro non sentì niente di ciò che la bambina gli disse. Era rimasto incantato dalla melodia dell'usignolo. «L'hai sentito? Ci si può dimenticare di tutto ascoltando la sua canzone!» Non ho mai sentito una melodia più dolce. Veramente il re sarà estasiato quando lo sentirà. Mio amato usignolo, vieni al palazzo. Il re vuole sentirti cantare. È un onore per me che il re abbia chiesto di me. Verrò sicuramente. Prendendo l'usignolo con loro, andarono verso il palazzo. Il palazzo era stato magnificamente decorato e scintillava maestosamente. Il re era seduto sul suo trono. Erano presenti tutti i cortigiani e i nobili. Un supporto d'oro era stato posto appositamente per l'usignolo. L'usignolo si appollaiò su di esso e cominciò a cantare. La sua canzone era così affascinante che il re fu commosso fino alle lacrime. «Voglio che il mio anello d'oro sia appeso al collo dell'usignolo!» «No, Vostra Altezza, non voglio niente!» Il solo fatto che ti sia piaciuta la mia canzone è importante. Il re ordinò all'usignolo di rimanere nel palazzo. Per lei fu costruita una gabbia d'oro. Le venne permesso di volare 2 volte durante il giorno e 1 volta durante la notte. 12 soldati la accompagnavano e le venne legato un nastro rosso intorno al collo. L'usignolo odiava volare così. Questo andò avanti per settimane. Un giorno qualcuno mandò al re una scatola su cui era stata incisa la parola usignolo. Sicuramente questo deve essere un nuovo libro scritto sull'usignolo. Ma non c'era nessun libro nella scatola. La scatola conteneva un usignolo tempestato di diamanti e di gemme. E quando la sua coda veniva tirata, questo cantava proprio come il vero usignolo. Un nastro penzolava dal suo collo, sul quale era scritto: «Questo usignolo, che appartiene al re del Giappone, non ha alcun valore di fronte all'usignolo che appartiene al re della Cina». Tutti furono felici di vedere l'usignolo artificiale. Che meraviglia! Facciamo in modo che cantino insieme! E i 2 usignoli erano fatti per cantare insieme. Ma la loro canzone non era molto piacevole, dato che il vero usignolo cantava quello che voleva e quello artificiale conosceva solo le canzoni che gli erano state insegnate. Non è colpa dell'usignolo artificiale. Sta semplicemente cantando ciò che gli è stato insegnato. Quindi venne fatto cantare solo l'usignolo artificiale. La sua melodia era proprio come quella del vero usignolo. E con i suoi diamanti scintillanti era meraviglioso. L'usignolo artificiale cantò molte canzoni. Un po' più tardi, il re disse che desiderava sentire il vero usignolo. Dove è andata l'usignolo? Qualcuno l'ha vista volare? Com'è possibile che nessuno sappia dove è andata? Sembra che abbia lasciato il palazzo. Tutti a corte erano felici di avere l'usignolo artificiale e non si stancavano di ascoltare ancora e ancora le sue canzoni. Le amavano. Questo usignolo è così bello e canta così bene. Guardandolo, nessuno potrebbe dire che è un usignolo artificiale. Siamo lieti di questo regalo del re del Giappone. Ministro, organizza un concerto per la prossima domenica. Voglio che l'intero regno senta le dolci melodie di questo usignolo. Come volete, Vostra Altezza. La domenica successiva fu organizzato il concerto dell'usignolo. Tutti lo adorarono, ma alcuni di loro avevano anche sentito il canto del vero usignolo. Queste melodie sono belle, ma non come quelle del vero usignolo. Quando canta, ti fa commuovere fino alle lacrime. Bravo, è così bello! Non importa quante volte lo senti, ne vuoi sentire sempre di più. L'usignolo artificiale venne sistemato nelle camere del re, sul suo letto. Il re ascoltava le sue canzoni prima di andare a letto e gli aveva dato il titolo di cantante reale. Il titolo venne scritto sul nastro e legato al collo. E ora venivano pubblicati libri anche sull'usignolo artificiale. La sua fama si diffuse in lungo e in largo. Dopo un anno, il re e i suoi cortigiani avevano memorizzato una delle sue canzoni. Non appena iniziava a cantare la canzone, le persone iniziavano a cantare con lui. Ma una notte, mentre l'usignolo artificiale cantava per il re, al suo interno si udì il rumore di qualcosa che si spezzava. Il mattino seguente, il re lo mandò a riparare da un orologiaio. Vostra Altezza, ho esaminato attentamente questa macchina. Cantando troppo e troppo spesso, i fili e le connessioni al suo interno si sono spezzati. E se tento di ripararlo, potrebbe perdere le sue melodie. Mi dispiace informarla che non sarà mai più in grado di cantare. Sentendo questo, l'intero regno cadde nella disperazione, poiché l'usignolo era un intrattenimento per tutti loro. Passarono 5 anni. Il re si ammalò gravemente. La sua salute era pessima. La gente del regno pregava perché il re guarisse. Vostra Altezza, per favore, di cosa ho bisogno? Cosa posso portarvi? Il re non disse nulla. Stava diventando più debole e sembrava che non potesse venir salvato. Gli era difficile perfino respirare. Non ricordava nulla, tranne... Canta, canta, mio amato usignolo, canta! Ti ho dato così tanto, non puoi farmi questo, canta, canta! Ma l'usignolo non si mosse. In quel momento, all'improvviso, il re sentì cantare fuori dalla finestra. Un raggio di speranza e di felicità attraversò la faccia del re. Dopo un po', al re parve di aver visto l'ombra di un uccellino fuori dalla sua finestra. Cercò di aprire gli occhi e vide che il vero usignolo era appollaiato alla finestra. Stava cantando. Sei tornata! Canta, canta, mio amato usignolo! L'usignolo cantò lì per un po' di tempo. La felicità del re aumentò ad ogni nota e sembrava che la sua volontà di vivere stesse lentamente riaccendendosi. Grazie, grazie mille, mio amato usignolo. Perché mi hai lasciato, ma oggi, tornando, mi hai restituito la vita? Come potrò mai ripagarti? Altezza, tu mi hai già ricompensata. Ricordo quando ho cantato per te la prima volta e tu ti sei commosso fino alle lacrime. Può essere una ricompensa maggiore per un artista. L'usignolo cantò ancora un'altra canzone e, ascoltandola, il re si addormentò. A guardarlo sembrava che non avesse dormito per secoli. Il mattino seguente, quando il re si svegliò, i raggi del sole entrarono dalla finestra. L'usignolo era appollaiato accanto a lui e il re sembrava stare molto meglio di prima. Resta con me per sempre, mio amato usignolo. Canterai solo quando ti sentirai ispirata. Non ti forzerò mai più. No, Vostra Altezza, non posso vivere nel palazzo. Ogni volta che avrò voglia di vederti, verrò. Costruirò un nido da qualche parte nelle vicinanze e ogni volta che avrai bisogno di me, volerò da te e canterò per te. Attraverso le mie canzoni ti dirò ciò che accade nel regno. Ma devi promettermi una cosa. Certo, dimmi, ti darò tutto ciò che desideri. Tu non farai sapere a nessuno che io ti dirò tutto del regno. D'accordo, sono d'accordo. Dicendo questo, l'usignolo volò via e il re si rese conto che gli uccelli non dovrebbero stare nelle gabbie. Anche loro hanno il diritto di vivere come vogliono. A nessuno è permesso schiavizzare nessuno. E gli uccelli sembrano stare molto meglio quando volano liberi e cantano tra gli alberi e le foreste. È lì che si trovano le loro vere case e non nei palazzi o nelle quattro mura delle abitazioni umane. Dopo un po' di tempo, quando il ministro andò a fare visita al re, vide che non era sdraiato sul suo letto, ma era invece in piedi vicino alla finestra, sorridente. Il primo ministro si affrettò a dare questa buona notizia a tutti e l'intero regno se ne rallegrò.